ghiaccio che racchiude in sé penose aspirazioni in fondo al viaggio da cui chi è partito non ritorna. Sacrato all'ido di ghiaccio ed è partito per raggiungere il